L'assenteismo sul lavoro nel settore del pubblico impiego riguarda in questo caso alcuni medici nel Cosentino, 18 sono indagati, alcuni di loro andavano anche alle slot machine durante le ore di lavoro, ma sono complessivamente 725 gli episodi documentati dai carabinieri. Infine una notizia di sport, appena arrivata, il primo oro ai mondiali di San Moritz italiano nel Super G, non italiano, è nel Super G donne, lo ha vinto l'austriaca Nicole Schmidhofer, 27 anni, l'Italia non è mai stata seriamente in corsa per una medaglia, la migliore quinta è la valtellinese Elena Curtoni. Ed è tutto per questa edizione di GR24 che torna alle 15, linea d'Europa 24. Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Oggi con le notizie europee partiamo dall'accordo di associazione UE-Israele, un consiglio sul quale le parti stanno lavorando e sarebbe, pensate, il primo in 5 anni. Si lavora dunque, ma come ha anticipato anche il rappresentante per la politica estera europea Federica Mogherini, la data rimane incerta perché alcuni paesi, tra cui Francia, Svezia e Irlanda, si sono infatti opposti a fissare la data per il 28 febbraio. Secondo il quotidiano israeliano Haaretz, si è trattato di un rinvio chiesto dai 3 paesi a causa della decisione del governo di Israele di rilanciare i progetti di insediamento ebraici in Cisgiordania e alla luce della legge che poi è stata approvata in serata ieri dalla Knesset, che regolarizza le case per coloni costruite su terre private palestinesi. L'idea di un'Europa a 2 velocità lanciate da Angela Merkel non sarà discussa domani nella riunione del Collegio dei Commissari Europei, lo ha reso noto il portavoce della Commissione, Margherita Schinas, sottolineando che domani è primo collegio dopo il summit di Malta, si discuterà dei risultati raggiunti. Schinas ha negato che la Commissione possa giocare un ruolo secondario rispetto agli Stati nella discussione sul futuro dell'Europa. La Commissione, ha detto, è stata centrale a Malta, ha contribuito pesantemente a tutti i principali risultati, continuerà ad essere centrale assieme agli amici italiani e maltesi nel disegnare la strada verso l'anniversario dei trattati di Roma. Durante la sua permanenza nell'Unione Europea, la Gran Bretagna ha assunto e probabilmente assumerà impegni finanziari e questi andranno rispettati in pieno, è quanto sostiene il portavoce della Commissione Europea. Questo sarà uno degli elementi essenziali del negoziato. Gli impegni sono stati presi insieme ad altri e se non saranno rispettati saranno gli altri 27 a dover pagarne il conto. Insomma, una questione ancora aperta ma che viene vista da Bruxelles con un certo ottimismo. E adesso invece parliamo di navigazione sicura in rete senza imporre solo paletti. Questo è uno dei temi del Safer Internet Day di cui anche l'Unione Europea si fa portavoce e sostenitore. Make time to talk with your child this Safer Internet Day, 7th of February 2017. La giornata mondiale della sicurezza in rete è arrivata. Si celebra oggi in oltre 100 paesi, Italia compresa, nella consapevolezza che un uso responsabile e sicuro della rete da parte dei più giovani non lo si raggiunge imponendo divieti, bensì attraverso la formazione. Per questo la Commissione europea ha istituito 14 anni fa il SID, il Safer Internet Day. In Italia l'evento collegato al SID 2017 si sta tenendo a Roma, all'ex caserma Guido Reni. Insieme a circa 1000 studenti ci sono il Ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli, rappresentanti del Ministero dell'Interno, della Polizia Postale, dell'Autorità Garante per l'Infanzia, oltre che diverse associazioni. Presente anche il direttore del portale per gli studenti scuola.net, Daniele Grassucci. La rete è un panorama talmente sconfinato che non si può pensare di risolvere il problema della navigazione sicura mettendo dei paletti. Bisogna formare i ragazzi e renderli consapevoli. La comunità europea sta investendo tantissimo per cercare di uniformare le campagne educative e di formazione in tutti i paesi e di promuoverle, tant'è che appunto il progetto Generazioni Connesse nasce all'interno di una progettualità europea che vuole che si costituisca in ogni paese membro un Safer Internet Center. Intanto il Ministero dell'Istruzione ha indetto per oggi in concomitanza con il Safer Internet Day la prima giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo a scuola, nella speranza, ha detto il Ministro dell'Istruzione Fedeli, che l'IDL recentemente approvato in Senato per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo diventi presto legge dello Stato. Per seguire in streaming le iniziative in programma oggi, il sito è www.generazioniconnesse.it, per le iniziative a livello europeo e mondiale www.saferinternetday.org. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per adesso è tutto, per oggi è tutto con il nostro appuntamento di Europa 24. Naturalmente vi do appuntamento a domani alle 14. Un saluto. Europa 24. collaborazione con Euronet Plus.